GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Un mestiere pericoloso, il punto dopo l'aggressione all'autista di Trieste Trasporti accoltellato ieri sul bus. Il futuro di Porcia sul tavolo nazionale Electrolux a Mestre, produzione sotto media e giornate di stop. Inquilini con problemi sanitari e mentali, nuove povertà, viaggio nel disagio abitativo di Trieste. Udine concede il patrocinio al Pride di Pordenone, scelta in coerenza con l'identità europea che vogliamo per la città, dice la Giunta. Terzo e quarto lotto dell'ospedale di Udine pesa il rincaro dei materiali, ma saranno operativi nel 2025. Patti Smith per Nova Gorizia, Gorizia, capitale europea della cultura. La poetessa del rock sarà alla Casa Rossa il 5 ottobre. 12:31, buongiorno da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Torniamo in apertura di giornale su quanto accaduto ieri pomeriggio a Trieste, con un conducente ferito all'addome da una donna salita sul bus della linea 10 con il compagno e con un cane al guinzaglio senza museruola. Sentiamo. Sono circa le 18:30 di ieri. Un autobus della linea 10 procede lungo via dell'Istria a Trieste. Poco dopo l'ospedale Burlo in direzione Valmaura entra una coppia di trentenni con un cane in stato di evidente alterazione. Due controllori della Trieste Trasporti fanno notare che il cane è senza museruola, obbligatoria sui mezzi, e i due danno in escandescenze con pugna alla vettura. Interviene il conducente che invita la coppia alla calma e con il telefono chiama la polizia. È allora che viene aggredito dalla donna con un coltello che miracolosamente colpisce la fibbia della cintura. Il conducente è illeso ma spaventato e arrabbiato. Nel giro di pochi minuti interviene la polizia, che porta in questura gli aggressori. Insulti e violenze come quella di ieri sono all'ordine del giorno, ci dicono i sindacati dei lavoratori. Michele Mastromarino, Faiza Cisal. L'episodio, per quanto ci riguarda, la gravità è isolato. Ci sono altri episodi di minor gravità che li abbiamo praticamente ogni giorno, però riusciamo comunque ad affrontarli. Questo episodio qua ci preoccupa molto perché non è mai accaduto di questa gravità. Appunto è da 10 minuti abbiamo stilato una lettera che invieremo al prefetto, al presidente della regione, al sindaco Roberto Di Piazza, che appunto chiediamo un incontro per poter stilare un protocollo di sicurezza per poter far sì affrontare questi episodi così, così gravi. Ecco. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Su Electrolux serve un confronto, soprattutto sulle voci di vendita, lo chiedono i sindacati prima del confronto di questo pomeriggio a Mestre. Questo pomeriggio a Mestre un incontro con i dirigenti Electrolux per parlare dello stabilimento di Susegana, almeno questo era stato programmato all'inizio, ma i sindacati vogliono vederci chiaro soprattutto su un'altra questione, cioè la proprietà di Electrolux che potrebbe passare di mano. È con noi Gianluca Ficco della UILM, segretario nazionale UILM, che in questo momento è a Casarsa dell'Elizia, ma più tardi parteciperà proprio all'incontro di Mestre. Allora, che cosa temete? Temiamo che la multinazionale continui a negare un confronto su quelle che sono le prospettive generali. Stiamo assistendo ad un fortissimo calo della produzione, delle vendite e al contempo a voci insistenti di vendita a coreani e cinesi, voci che sembrano sempre più corroborate dai fatti, compreso l'anomalo andamento del titolo in borsa. Per cui chiediamo alla multinazionale di utilizzare l'incontro di oggi non solo per l'ordine del giorno che era stato precedentemente stabilito, vale a dire il possibile investimento nello stabilimento di Susegana, ma per affrontare un argomento più generale e per così dire ancora più importante, perché di fondo riguarda tutti, il destino del gruppo. Ricordiamo che a Porcia ci sono circa 1500 dipendenti che vengono da un paio di anni di ampio utilizzo della cassa integrazione, quindi di riduzione dello stipendio in busta paga. Casarsa della Delizia, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Viaggio nel disagio abitativo a Trieste, un fenomeno tristemente in crescita. pile di vestiti e altri oggetti accumulati nel tempo, muffa ovunque. L'aria è pesante, indossiamo le mascherine per riuscire a respirare in questo appartamento ater della periferia, abitato da quasi 20 anni da una coppia di triestini. È uno dei molti esempi di degrado abitativo che riflette un forte disagio sociale e personale degli inquilini, persone i cui problemi di salute fisica si intersecano a problemi di salute mentale e spesso giocano un ruolo importante anche le dipendenze. Un fenomeno molto complesso in costante crescita a Trieste, come ci confermano servizi sociali, sanitari e ATER. Asia USB, l'associazione di inquilini e assegnatari, denuncia con forza le mancanze che ci sarebbero da parte delle istituzioni e che non si dimostrerebbero in grado di far fronte alle reali esigenze di persone ai margini. Il presidente di ATER, Riccardo Novacco. C'è una sinergia talmente stretta tra l'ATER e il Comune di Trieste e gli assistenti sociali e la SUGI, che in qualche maniera ci vedono coinvolti, anche perché noi abbiamo allestito peraltro due o tre mesi fa un ufficio preposto che si chiama ufficio sociale, ci sono due o tre persone che lavorano quotidianamente su queste tematiche. Carlo Grilli, consigliere regionale. Trieste è una città che ha nella solitudine un motivo, come dire, un comune denominatore di molte situazioni. Queste persone vanno fatte sentire meno sole, vanno fatte sentire accompagnate e vanno fatte sentire parte della comunità. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in tarda mattinata nel territorio comunale di Morsano al Tagliamento in via Veneto, all'incrocio con via Paludi. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, ha perso il controllo del camion che stava guidando e si è ribaltato. I sanitari sono intervenuti con un'ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento e l'eli soccorso, prendendo in carico l'uomo, che poi è stato trasportato in volo in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia, stabile e cosciente. Operativi nel 2025 i padiglioni in corso di realizzazione del nuovo ospedale di Udine. Questa mattina il sopralluogo dell'assessore alla salute Riccardo Riccardi. Dovrebbero finire nel 2024 i lavori per il terzo e quarto lotto dell'ospedale di Udine per un'entrata in esercizio dopo i relativi collaudi nel 2025, un cantiere che malgrado gli aumenti dei costi va avanti grazie all'intervento della Regione. Al momento sono 16 milioni aggiuntivi messi in campo dalla Regione a causa del caro prezzi, ma all'appello ne mancano da 25 a 30 per un'opera il cui costo complessivo era preventivato in 66 milioni di euro. Euro più IVA, nuovo pronto soccorso, 15 posti di terapia intensiva, area di degenza postoperatoria. Denis Caporale, direttore generale azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Ospiterà sicuramente una parte di sale, una parte dell'emergenza, della nuova emergenza del Santa Maria e sicuramente anche una parte della radiologia, come anche parte ambulatoriale. Quindi non ci saranno tanti posti letto che naturalmente sono già stati ubicati nella parte anteriore del nuovo ospedale, sicuramente però ottimizzerà sicuramente i percorsi dei pazienti. È un cantiere per noi importantissimo, che non rispetterà proprio i tempi perfettamente, però siamo vicini rispetto ai tempi di programmazione dell'opera. Per noi è fondamentale naturalmente anche l'ampliamento dell'ospedale Santa Maria, per cui il nuovo ospedale si completerà appunto con il terzo e quarto lotto. Una superficie totale di 56.800 metri quadri che ospiterà sul tetto la nuova elisuperficie per l'atterraggio notturno degli elicotteri. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo la certificazione internazionale dell'Organizzazione degli Istituti Oncologici Europei, l'unità sinologica del CRO di Aviano viene riconosciuta Centro Europeo di Eccellenza da EUSOMA, la società europea di specialisti nel cancro al seno. Il riconoscimento, garanzia dell'offerta delle migliori prestazioni in termini organizzativi, diagnostici e terapeutici, giunge al termine del secondo ciclo di accreditamento. La Breast Unit del Centro di Riferimento Oncologico opera come gruppo multidisciplinare e multiprofessionale dal 2013. Il team riunisce tutte le specializzazioni coinvolte nella diagnosi, nella cura e nel trattamento del tumore mammario. I membri si riuniscono a cadenza settimanale per la discussione dei casi clinici, per garantire a ogni paziente la migliore strategia diagnostica e terapeutica. Il comune di Udine in controtendenza concede il proprio patrocinio al Pride, appoggio rifiutato dagli altri comuni capoluogo e dalle università. È una scelta in coerenza con l'identità europea che vorremmo che Udine avesse come amministrazione comunale. Condividiamo i principi di uguaglianza e non discriminazione, ha detto l'assessore alle pari opportunità Arianna Facchini. Il servizio. Il comune di Udine ha deciso di dare il proprio patrocinio al Pride, in programma il 10 giugno a Pordenone. Si tratta, indicano gli organizzatori, del momento di massima espressione dell'orgoglio, della visibilità e delle rivendicazioni della comunità LGBTQIA+ della regione. De Toni dunque ribadisce un sostegno che aveva dato a suo tempo anche come rettore. Udine, unico ex capoluogo di provincia governato dal centro-sinistra, si schiera in controtendenza rispetto a Pordenone, Trieste e Gorizia e alla stessa regione, che non hanno concesso il patrocinio alla manifestazione. Anche l'Ateneo Triestino e quello del capoluogo friulano hanno detto no. Decisione questa criticata dalla direzione organizzativa del Pride, la quale sottolinea invece il sostegno di 3 ordini professionali, assistenti sociali, psicologi e professioni infermieristiche. In tutto, assieme a Udine, sono 12 i comuni che hanno detto sì al Pride, il più grande di questi San Vito al Tagliamento. Il Pride, reso realtà da 140 volontari, è preceduto da 2 mesi di eventi su tutto il territorio regionale dedicati a diritti e cultura. A metà maggio è arrivato anche il sostegno della CGIL e del suo sindacato scuola. Il patrocinio è esclusivamente gratuito, ribadiscono gli organizzatori, e quindi simbolico. Il Pride è autoprodotto e autofinanziato. Il primo si tenne in regione, a Udine, nel 2017, quando il sindaco era Furio Onsel e De Toni era rettore dell'Ateneo. Partecipò al corteo, rappresentativo del Triveneto, l'allora presidente di regione Deborah Serracchiani. Massimiliano Federiga, capogruppo alla Camera allora, depositò un'interrogazione parlamentare per chiedere al ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, di prendere posizione in merito alla decisione di De Toni, in quanto la manifestazione era connotata come politica. Quella del 2023 sarà la 4ª edizione, nel mezzo quella di Trieste nel 2019 e Gorizia nel 2021. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cultura della sicurezza per il secondo anno entra nelle scuole medie e superiori della regione grazie al concorso di idee We Love Safety, promosso dalle 4 casse e scuole edili del Friuli Venezia Giulia. Quest'anno anche nel nome di Lorenzo Parelli, lo studente morto nel tirocinio in fabbrica. Raddoppiata la partecipazione che ha visto sfidarsi oltre 1200 studenti. I piccoli gesti che fanno grande la sicurezza, Nicole, studentessa del liceo Fabiani di Gorizia, li ha pensati e disegnati dentro uno striscione, la sua idea, la spuntata tra quelle degli oltre 1200 studenti delle medie superiori che hanno raccolto la sfida del concorso sul tema della sicurezza promosso dalle 4 casse e scuole edili della regione. La questione della sicurezza dovrebbe essere insegnata fin da subito ai ragazzi, però il mio timore è che i ragazzi non riescano davvero a comprendere questo insegnamento, è sottovalutata come questione. Il progetto prevede anche lezioni in classe di esperti sulla sicurezza. Ai più piccoli delle medie è stato chiesto invece di realizzare un breve spot audio sui rischi per l'udito di un uso inconsapevole di smartphone e cuffiette. Ho imparato che sull'udito uno dei sensi più importanti del nostro corpo è che se si perde non si può più recuperare. È molto importante che impariamo già adesso a saper che la sicurezza è una cosa molto importante. Se ne vede tanto o poca in giro secondo te? Secondo me se ne vede abbastanza poca, quindi state tutti più attenti. 1000 euro in palio per le scuole premiate, tra cui le medie di Fiumicello Aquileia, Tavagnacco e Marconi di Udine. Gli striscioni più votati saranno appesi nei cantieri e gli audio vincitori circoleranno in rete. Efficace per gli insegnanti la scelta di divulgare la sicurezza attraverso la creatività. Vittorio Salvatore, insegnante della scuola media di Fiumicello. Sicuramente è un tema che va portato, avvicinato alle nuove generazioni, probabilmente anche più piccoli di loro, quindi magari già alle elementari, perché comunque è un tema che poi ci segue per tutta la vita. I numeri dell'iniziativa confermano intanto una sensibilizzazione crescente. Il direttore del Centro Edile per la Formazione e Sicurezza di Udine, Loris Zanor. Oltre il numero delle scuole e i partecipanti, che sono più che raddoppiati, abbiamo avuto più di 9.000 follower e più di 10.000 votanti in 2 settimane. Quindi questo comporta un lavoro con le giovani leve molto importante sulla cultura della sicurezza, dove noi come scuole e come casse intendiamo investire. Udine, Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Scuola di Ecologia, un istituto tecnico di Trieste, il Deledda Fabiani, ha realizzato un gioco in scatola dedicato alla vita delle api. Obiettivo: sensibilizzare ragazzi e famiglie alla tutela di questi insetti indispensabili alla sopravvivenza stessa dell'ecosistema. Ragazzi che giocano ai giochi in scatola, ragazzi che quei giochi li realizzano. Succede all'Istituto Tecnico Deledda Fabiani di Trieste, dove una classe quinta dell'indirizzo di biotecnologie ambientali ha realizzato un gioco dedicato alla vita quotidiana di un alveare, Beehive, essere alveare, un'idea promossa dal professore di chimica Marco Neviel come attività di alternanza scuola-lavoro. Sono un appassionato di giochi, i ragazzi avevano seguito diversi altri progetti sulle api, e anche avevamo un'arnia didattica a scuola che poi è stata distrutta appunto da parassiti vari. Mettendo insieme questi elementi ho pensato appunto di creare un gioco. Il gioco è tra i finalisti del concorso nazionale Fotonica in Gioco. La scuola ha già ottenuto 600 euro per questo risultato. Ma come si gioca e soprattutto piace ai ragazzi? Ogni giocatore deve gestire un alveare affrontando problematiche comuni alle arnie di tutti i giorni, che possono essere parassiti, come ha detto il professore, di cui sono state colpite le nostre api a scuola, o altre malattie o cambiamenti climatici. I fieri possono essere contagiati e contaminati da alcuni pesticidi, per arrivare poi alla fine dell'anno, quindi nell'inverno, con una scorta di miele che riesca a sostenere l'arnia. Già da prossima alla maturità si dice felice di aver scelto l'istituto tecnico. Perché? Ho seguito un po' alcuni miei compagni di classe, amici, e ho fatto solo bene in realtà a seguirli, perché mi ha offerto molti spunti, non solo riguardo alle materie scientifiche teoriche e neanche quelle pratiche che facciamo in laboratorio, ma anche ad affrontarle poi fuori. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Sport: la campionessa di paraciclismo spilimberghese Katia Aere si aggiudica con la seconda posizione la medaglia d'argento in Coppa del Mondo nella corsa in linea a Huntsville negli Stati Uniti. Ora uno sguardo al meteo: il cielo è dopo con nuvoloso a variabile, le temperature registrate alle 11 a Gorizia e Pordenone 25 gradi, a Udine 24 gradi, a Trieste 23 gradi e mezzo, a Tolmezzo 22 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 20, a Solforni di sopra 19, a Sappada 16 gradi e mezzo, sul Piancavallo 15 gradi, sul Monte Zoncolan 11, sul Monte Lussari 9 gradi e mezzo. Sulla costa Lignano 25 gradi, 24 a grado. E le previsioni per oggi: cielo da poco nuvoloso a variabile. Nel pomeriggio saranno possibili locali rovesci o temporali sulla zona montana e poi forse su qualche zona di pianura. Sulla costa dovrebbe prevalere il sereno e soffierà bora moderata. Mentre per domani, nuvolosità variabile con la possibilità di qualche locale rovescio o temporale dal pomeriggio, più probabili sui monti. Su pianura costa soffierà bora moderata, più sostenuta nella zona di Trieste. Patti Smith in concerto nel piazzale della Casa Rossa in ottobre per un evento di Go 2025 Borderless. L'annuncio è stato dato oggi nella conferenza stampa che si è tenuta a Gorizia. L'artista sarà protagonista di un concerto gratuito e aperto a tutti che si terrà il prossimo 5 ottobre nel luogo simbolo oggi dell'unione e della collaborazione tra due città confinanti. L'album di debutto della poetessa del rock Horses, pubblicato nel 75, è stato inserito nel registro nazionale dei dischi della Biblioteca del Congresso statunitense. Viene inaugurata oggi la tappa di Maniago della mostra Che genere di voto? Immagini e parole dalla stampa friulana sul primo voto delle donne nel 1946-1948, che ripercorre uno dei passaggi storici più importanti della ricostruzione sociale e politica del nostro paese dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Per l'occasione, alla Biblioteca Civica del Comune friulano, alle 17.30 interverranno le curatrici Antonella Lestani, neopresidente del Comitato Provinciale Udine, e Roberta Corbellini di Se non ora quando Udine. Proprio a Roberta Corbellini abbiamo chiesto come sia andato quel primo voto femminile in Friuli Venezia Giulia. Il voto come donne chiamate ad esercitare per la prima volta un diritto che dalla fine dell'Ottocento poi le donne italiane aspettavano, è andato benissimo, perché come nel resto d'Italia più dell'88% è andata a votare. L'elettorato femminile risponde sempre meglio dell'elettorato maschile, già le donne all'epoca votano di più. Sempre, soprattutto negli ultimi anni. Nel 1946 la risposta coincide anche con un desiderio di partecipare alla ricostruzione del paese. E perché i giornali erano ostili all'emancipazione femminile? Quando si parla del voto, ma anche quando lei legge i libri di testo, i libri scolastici, cioè sempre tutti dicono finalmente arriva il voto e incomincia una nuova stagione, no? Per la partecipazione delle donne alla cittadinanza e quindi ai diritti. Sì, ma il voto per le donne in questo momento era considerato donne avete il voto e votate, non donne avete il diritto alla rappresentanza. Le prime vere elezioni sono proprio le elezioni amministrative. Ed è da lì che si incomincia a sentire il tono della campagna elettorale, da un lato, perché si tratta di entrare nella vita vera, insomma, dei paesi che devono ripartire. Ci sono mille problemi e sono problemi legati alle vite familiari, poi, dove le donne sono le grandi protagoniste. Bene, in quella campagna elettorale la presenza delle donne in quello che è uno spazio politico viene percepita molto male. L'opinione pubblica richiama le donne a casa a rappresentare quello che è, insomma, il modello dei valori tradizionali. Dal pomeriggio del prossimo venerdì 16 giugno alla domenica sera 18 giugno, Stavoli di Moggio, definito il borgo più isolato d'Italia e raggiungibile solo a piedi, ospiterà l'edizione zero del festival L'Isola di Stavoli, presentato questa mattina a Udine dall'associazione Upon a Dream. Il minuscolo borgo diventerà così il palcoscenico per un vero e proprio eremitaggio di riconnessione, un festival tra arte e natura con più di 20 tra attività e spettacoli. Ultimo appuntamento che precede l'inizio del Ribolla Gialla Wine Festival in programma a San Vito al Tagliamento il 3 e 4 giugno. Stasera Angelo Floramo discuterà del suo libro Vino e Libertà insieme ad Andrea Visentine. Appuntamento alle 20:30 in piazzetta Pescheria. A un anno dalla scomparsa dello scrittore Boris Pahor è in programma la presentazione del libro della scrittrice Ligi Roberto dal titolo La mia amicizia con Boris Pahor all'auditorium del Museo Revoltella a Trieste alle 16. Al Museo della Comunità Ebraica Carlo e Vera Wagner presentazione del libro di Jacek Kopciowski Abitare il domani. Apprendere dal passato, attivarsi nel presente, costruire il futuro, il metodo Feuerstein in atto, alle 18. E alla stessa ora, alle 18, all'Antico Caffè San Marco di Trieste, Massimo Bazzocchi presenta i suoi due libri, L'Arco e Cleopatra e Diomede l'Oro Bianco, in cui l'autore intreccia la storia con la narrazione di fantasia. Serata finale per il festival diffuso Grindhouse sul cinema europeo di genere. Saranno proiettati al Cinema Zero di Pordenone, al Visionario di Udine, al Kinemax di Gorizia, i film vincitori della prima e della seconda parte della selezione. Torneranno in sala quindi As Bestas di Rodrigo Sorogoyen e On the Edge di Giordano Gederlini. Al pubblico la possibilità di scegliere in questa gara finale quale dei due film risulterà il vincitore dell'intera edizione. As Bestas sarà in programma al Visionario alle 21:15, al Cinema Zero alle 20:45 e al Kinemax alle 20:30, mentre On the Edge sarà in programma al Visionario alle 19, al Cinema Zero alle 18:30 e al Kinemax alle 17:30. Ancora alcuni appuntamenti per Aspettando la notte dei lettori alle 18:30 nel Castello di Strassoldo. Paolo Patui presenta Alfabeto friulano delle rimozioni, dialogo con Martina Del Piccolo. Parte a Trieste il Festival Internazionale di Poesia Palabra nel Mondo, Parola nel Mondo, che si svolge ogni anno a maggio in oltre 800 località di 70 paesi nel mondo. Sotto la direzione del critico e poeta Enzo Santese, 12 poeti leggeranno le le loro composizioni. Alle 17.30 allo spazio della stazione Rogers di Trieste. Per la rassegna Libri e Vini in Piazzetta in programma la presentazione del libro Casa Mia, Casa Mia con Chiara Gili e Francesca Sarocchi, un viaggio nei lati più divertenti del panorama immobiliare triestino. Alle 18 nella piazzetta del Villaggio del Pescatore. Al Kulturnidom di Gorizia si terrà l'inaugurazione della mostra commemorativa del pittore triestino Robert Hlawati. La presentazione sarà affidata allo scrittore Andrea Bellavite e alla critica d'arte Nelida Nemez. Inizio alle 18. La mostra resterà aperta fino al 25 giugno. Ed è arrivata a Roma la mostra itinerante Ieri, Mossemo e Saremo, Immigrazione Giuliana nel mondo, una storia da non dimenticare che ripercorre il cinquantenario dell'Associazione Giuliani nel mondo. L'inaugurazione oggi nella sala del Cenacolo, nel Palazzo della Valdina, pochi passi da Montecitorio, e poi la mostra si sposterà nel complesso della Camera dei Deputati, dove sarà visitabile fino al 9 giugno. È tutto per questa edizione del giornale Radio Regionale, in regia Riccardo Stoic e Eugenio Giuffrida, in redazione ha collaborato Cristina Polselli, da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.